fare tutta la Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. Bentornati ascoltatori dopo questa piccola pausa. Questa piccola pausa, ci ritroviamo nel nostro studio Risto Radio Convento in questa notte oramai che sta avanzando. Sono le 00:29, siamo in diretta, ma poi potremo riascoltare anche i nostri podcast direttamente scaricandoli dal nostro sito. Di questo 21 febbraio, giusto perché il 20 febbraio qui al convento di Lonato si è tenuta quella consueta cena con profitto che grazie a Garda Servizi ogni cadenza mensile riusciamo a organizzare per far incontrare le aziende, gli imprenditori che hanno qualche interessante proposta. E siamo in studio in questo momento con l'avvocato Alessandro Ferrini di Piacenza. Avvocato Alessandro Ferrini, eccolo qui con noi. Buonasera avvocato, benvenuto, anzi buonanotte avvocato, benvenuto nel nostro studio. Buonasera e grazie dell'opportunità che mi è stata fornita questa sera. Era la, per me la prima volta che partecipavo a una serata di questo tipo. Una serata di incontri, sì. E sono stato molto contento perché l'organizzazione della Fergardo Servizi è stata, credo, impeccabile, sia dal momento in cui sono entrato in contatto con loro, sia poi ovviamente stasera per il ricevimento e quant'altro. E devo dire che è stata molto utile perché ho avuto l'occasione di confrontarmi con diversi professionisti, imprenditori di diversi settori con i quali ho, anche per il mio lavoro, magari meno familiarità. E devo dire che con alcuni c'è stata l'occasione anche di cominciare a stringere magari qualche contatto. Uno scambio di... Sì, qualche contatto, qualche piccola... Certo, certo, così, certo. Occasione di confronto, appunto, che vedremo che effetti potrà portare in futuro. In futuro, certamente. È proprio questa, è proprio la finalità di Garda Servizi e di queste cene con profitto, riuscire a dare l'opportunità agli imprenditori di potersi scambiare, scambiandosi contatti reali, non mail, non virtualità, ma contatto reale. Ma parliamo un attimo, avvocato, del suo studio e dei suoi progetti. E il suo studio di che cosa si occuperà? Ha una mission particolare? Ha una specializzazione? Allora, lo studio è a Piacenza, in una zona praticamente centrale, a pochi passi dalla piazza principale, e che è la piazza Cavalli, dove c'è il residente del comune e quant'altro, a 500 metri dal tribunale di Piacenza. Quindi è una zona che comunque è facilmente raggiungibile e quant'altro, quindi a livello logistico, insomma, ci permette di essere abbastanza utili ai nostri clienti. Lo studio in realtà ha una mission abbastanza varia, nel senso che siamo diversi professionisti, ciascuno dei quali è più specializzato in una materia rispetto agli altri. Per farla in sintesi, io mi sono occupato sin da quando ho terminato gli studi universitari, quindi già dall'inizio del tirocinio, ormai 10 anni fa, e tuttora, di diritto privato e in particolare di recupero crediti per imprese. Ho seguito per diverso tempo aziende del ramo edile e ora sono spostato più sulla metalmeccanica, con anche interessamento di fallimenti, procedure concorsuali e fasi di esecuzione, quindi pignoramenti e aste e vendite, mentre gli altri colleghi di studio si occupano di diritto penale, diritto minorile, quindi anche diritto di famiglia e in parte minore in diritto amministrativo tributario e quindi queste materie. capita di avere a che fare spesso con clienti di, diciamo, nazionalità straniera, e quindi anche la possibilità di interagire con l'ufficio immigrazione, con le problematiche legate ai permessi di soggiorno e quant'altro, e possiamo dire che lo studio segue praticamente a 360 gradi con i vari professionisti le varie esigenze che possono insorgere, ecco. Certo, anche perché parlando di immigrazione, problematiche legate all'immigrazione, parlando di procedure fallimentari in campo edile, come era inizialmente, dicevi tu, avvocato, è chiaro che siamo di fronte ad ambiti e ad aspetti assolutamente quotidiani, di ordine quotidiano, pertanto le esigenze che un'azienda, un'impresa ha di recupero crediti sono sempre all'ordine del giorno. E qualche esperienza particolare può raccontarcela? Allora, senza fare nomi, perché la deontologia certamente, professionale certo, ce lo certo. impone, però diciamo che ho avuto l'occasione durante il tirocinio di affrontare insieme allo studio dove lavoravo inizialmente una grossa amministrazione straordinaria di un'impresa di edilizia della provincia di Piacenza, che occupava circa 800 dipendenti tra le varie filiali che avevano, e questa azienda è stata per 2 anni e mezzo appunto in amministrazione straordinaria, e appunto è stata un'esperienza molto dura, perché comunque ha comportato un impegno professionale non indifferente. Certo. Però dall'altro lato è stata comunque una forte palestra formativa, perché mi ha dato modo di confrontarmi, pur in un periodo ancora di tirocinio, quindi apprendimento della professione forense, con un settore che è quello appunto delle procedure concorsuali di questo tipo, che a non tutti capita, quindi devo dire, mi ritengo fortunato di aver potuto prendere parte a questo grosso, chiamiamolo progetto ecco, certo, che certo. si è inserito in un già in un discorso comunque di studio che copriva l'ambito del recupero crediti in particolare già in maniera molto forte. E successivamente, invece, da quando poi ho iniziato la carriera in modo individuale, quindi superato l'esame di Stato e aperto studio in modo privato, credo che una delle soddisfazioni più grandi che mi sono tolto a 32 anni, quindi un anno e mezzo fa circa, è stata quella di riuscire a a salvare un'azienda che è mia cliente sin da quando ho intrapreso la carriera al di fuori dello studio dove avevo fatto pratica, da un'istanza di fallimento che insomma aveva messo a seria, rischiava di compromettere la prosecuzione dell'attività, e un'azienda che ha tutto sommato 20 operai, 20 dipendenti, e quasi tutti sono padri di famiglia, quindi mi sono comunque dovuto impegnare parecchio, perché la controparte era uno dei primi istituti bancari italiani, e il capitale e il credito per cui si andava a discutere era molto elevato, e quindi ecco, la soddisfazione di riuscire a evitare l'istanza di fallimento da un lato e concludere con questo colosso risultato un colosso bancario, un accordo di trattativa, di transazione, come si dice in termini tecnici, che è stato con fatica ma comunque onorato fino all'ultimo rateo dalla cliente, sicuramente mi ha dato una soddisfazione che È un impulso, ripagato, è un impulso, sì, esatto, certo. È un impulso anche perché credo, credo che veramente un'attività come la tua, un'attività come la vostra in generale, e poi da persona a persona poi si differenziano anche i vari stati d'animi e i vari sentimenti con cui si affrontano le questioni, le problematiche, però credo che un'attività come la tua sia veramente un'attività che può dare anche gratificazioni morali importanti. Sì, quello sicuramente. Cioè salvare un'azienda, 20 famiglie, posti di lavoro, eccetera, cioè voglio dire, credo che sia assolutamente una gratificazione che va al di là della parcella, dell'onorario, dell'impegno, del sacrificio e della propria attività professionale, va al di là, e qui si tocca, sì, anche l'aspetto umano, è importantissimo, ecco, questo. Assolutamente, ecco, su questo passaggio sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che lì la soddisfazione è stata quella appunto di trovarmi, in realtà mi sono caricato io sulle spalle la responsabilità di salvare, diciamo così, questa azienda, pur sapendo che è un cliente che comunque ha delle difficoltà, però mi sono preso in prima persona la questione della, appunto, di trovare il modo di evitare il possibile fallimento, e ho dovuto fare ricorso a tutto quello che avevo imparato durante il tirocinio, tutto quello che poi è stato esporsi anche in prima persona, rendersi in qualche modo garante che poi gli impegni che si sarebbero presi vengano poi onorati, eccetera. Quello, certamente, assolutamente, certo. Perciò la credibilità dello studio che comunque difende una causa, una pratica, è, direi, fondamentale, importante, se non addirittura proprio fondamentale per la buona riuscita ovviamente della trattativa, ma poi anche per la credibilità del professionista che dello studio. Quello certamente, anche perché non è cosa nuova, non scopriamo l'acqua calda quando diciamo che c'è un sovraffollamento di avvocati, di professionisti dell'ambito legale in Italia, senza andare a scomodare fuori come possono essere Milano, Roma o quant'altro, che hanno comunque numeri decisamente spropositati. Già Piacenza, che a occhio e croce ha circa 100.000 abitanti, iscritti al foro siamo tra gli 800-850 professionisti, tra avvocati e praticanti comunque con il patrocinio, quindi che possono... Sembrano ancora numeri ragionevoli, allora. Sembrano numeri ragionevoli, sì, sulla carta, però poi nel concreto in realtà è un numero elevato, molto elevato, perché c'è una forte concorrenza da un lato, che potrebbe essere un dato positivo, dall'altro però si arriva a quasi, diciamo, a pestarsi i piedi, come, usando un termine calcistico, ci si arriva a, come dire, a dover arrabattarsi per un piccolo cliente, e quindi ecco che allora quel discorso di prima, cioè la buona riuscita di alcuni magari processi, piuttosto che la credibilità dello studio, oltre che del professionista singolo, assume una qualifica e una responsabilità, certo, molto, immagino, più elevata. Diciamo che purtroppo la professionalità a volte viene messa un gradino dietro all'immagine e al nome dello studio, piuttosto che rispetto a quello che probabilmente dovrebbe essere, cioè il valore e la competenza del singolo professionista. E quindi, come capita che un bravo avvocato arrivi magari a perdere magari una causa e quindi viene ricordato per aver perso quel processo, un avvocato magari meno quotato, meno bravo tecnicamente come esperienza, come qualità, ma che fa parte di uno studio di primo livello, ha forse più probabilità di fare bella figura che non appunto l'altra qualità. È un po' come dire che un calciatore di media capacità tecnica che però gioca in una squadra di primo livello, se gioca male, sì, se ne accorgono perché c'è uno stadio magari che lo fischia, però se gioca la partita nella sua media, gli altri 10 giocatori comunque vanno a sopperire, probabilmente passa in secondo piano. Il gioco di squadra, il classico gioco di squadra, si usa sempre la metafora calcistica, ma in realtà il gioco di squadra vale nei team, vale nel gruppo assolutamente. Esatto. Questo lo vedo anche perché al di fuori poi dell'attività professionale, per me faccio un piccolo inciso, ma è giusto perché anche vista l'ora, insomma, si può anche alleggerire un attimo la serata, oltre a fare questo. Infatti volevo toccare questo aspetto, avvocato, la lasciavo terminare questa presentazione, questo excursus sulla sua attività professionale, però poi dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che quando lei si è presentato agli altri imprenditori presenti in questa serata, cena con profitto, lei anche si è esposto anche in modo personale. Ci racconti che cosa? Allora, io se sono atleta e allenatore di tennis tavolo dal 1996 e allenatore dal 2006, perché ovviamente l'età, fino alla maggiore età, non è possibile ottenere l'abilitazione di tecnico federale. E devo dire che praticamente, pur avendo iniziato tardi rispetto ad altri giocatore della mia età e quant'altro, e hanno iniziato sicuramente prima di me, io ho iniziato in prima media, quindi partivo già con un gap da colmare sin dal primo momento in cui ho preso in mano la racchetta. Però devo dire che è uno sport nel suo piccolo, detta in modo brutto, sport minore, ma è uno sport che in realtà ha molte caratteristiche in comune con tanti altri sport e che forse nel suo essere considerato piccolo dà la possibilità di poterlo praticare nella maniera più pura dello sport, quindi meno business e più fisicamente sport nella sua completezza, che include, oltre che alle competenze tecniche e all'esercizio tecnico da svolgere durante la partita, durante l'allenamento, anche tutta una componente sia psicologica sia di formazione, e è appunto, credo che sia uno anche dei motivi che mi ha permesso di poter arrivare ad ottenere anche questi risultati nell'attività professionale, che comunque comporta sacrifici, comporta orari, comporta studio sia propriamente detto su manuali, su codici, sia nella fase dell'università sia nella fase poi proprio dell'attività in sé per sé, ma anche proprio il dover mettere da parte determinate aspirazioni e quant'altro e concentrarsi specificatamente magari su un determinato processo, perché quella è la priorità, quindi sia appunto sia dal lato fisico che dal lato poi psicologico. È uno sport che richiede molto, ma restituisce anche tanto, quindi sia, diciamo, che la fatica viene ripagata, e ripeto, questo io l'ho visto in tanti anni passati al tavolo, passati in giro per l'Italia a praticare l'attività, io ho a seguire ragazzi di tutte le età che appunto ho iniziato successivamente, e dall'altro lato appunto a questa abitudine, diciamo, alla pressione, allo stress anche mentale, credo che sia stato per me un aiuto, un e una buona palestra. Certo, poi da riversare nell'ambito professionale. Poi nell'ambito professionale, certo. nella vita anche privata, insomma. Quindi è uno sport che magari è poco considerato, però mi permetto di suggerirlo e di consigliarlo, perché come tutti gli sport, ma questo in particolare, io dico, dopo 25 anni credo che, insomma. Devo dire l'avvocato che in questo studio siamo in due, se lei, stiamo parlando con l'avvocato Alessandro Ferrini di Piacenza. e stiamo parlando dai microfoni di Risto Radio Convento. Devo dire, avvocato, che siamo in due, e siamo in due che amano questo sport, perché io all'età, le faccio una piccola confidenza a lei e ai nostri ascoltatori, all'età di 6 anni facevo già le prime gare, ma amatoriali, cioè a campeggio con gli amici olandesi e tedeschi, ci facevamo le sfide a tennis da tavolo, al ping pong. Perciò veramente le dico che mi ha fatto fare, con questa sua chicca e questo suo racconto personale, ha fatto fare anche a me, e spero anche a tanti dei nostri ascoltatori, ha fatto fare un salto nel passato e un salto anche nelle emozioni che questo sport riesce a dare, perché è molto dinamico, molto veloce, molto, molto fisico e molto preciso, perciò ha tantissime caratteristiche. Ti intercetto, certo. come farebbe un buon terzino di una volta. Richiamo sempre i termini calcistici, perché vanno per la maggiore, qui secondo me tutti quelli che ascoltano capiscono quello che intendo. E già io per primo posso dire di aver cominciato i primi colpi ad averli fatti in campeggio, quindi capisco perfettamente quello che dicevi tu, e penso che per tanti sia stato così. Infatti è uno sport che generalmente nasce o in spiaggia o in campeggio o, come è capitato anche nella nostra società, in un oratorio. Certo. L'unica eccezione è chi ha già in casa il tavolo, perché il papà, il fratello, lo zio giocava già, o la mamma. Certo. Comunque familiare, le quote rosa, certo. Non tralasciamo le quote rosa assolutamente, sennò le ascoltatrici poi cambiano canale. Insorgono. E quindi ecco, io per primo posso portare l'esperienza della mia società, che è il tennis tavolo Corte Maggiore, che ha da sede da 30 anni, ha festeggiato il 30° anniversario proprio in questa stagione, all'interno di un oratorio, l'oratorio Don Bosco, che come dire, da 30 anni ci ha dato supporto reciproco, certo. Perché anche per i ragazzi è comunque una scuola di vita, come si dice. Sembra una frase fatta, però all'inizio magari sì, dopo 24 anni, anzi quasi 25, posso dire che non è una frase fatta, ma è veramente la realtà. Tutti gli sport, io ho fatto questo, e di questo posso portare sicuramente una testimonianza di vita vissuta, ecco. Ringraziamo l'avvocato per questa sua esperienza, ci ha regalato anche, e lo ringraziamo veramente di cuore, ci ha dato anche un taglio personale alla sua professione. Pertanto abbiamo scoperto di lui diversi aspetti. Diciamo che ciò che è rimasto non è perduto, vale a dire, magari avremo la possibilità, siccome queste cene con profitto hanno una cadenza comunque periodica, mensile, avremo magari la possibilità di avere ospite ancora il nostro avvocato. Ricordiamo, è l'avvocato Alessandro Ferrini di Piacenza. Ricordiamo anche un indirizzo mail per chi fosse magari interessato anche solamente a contattarlo per avere qualche indicazione, qualche informazione. alessandro.ferrini@ordineavvocatipc.it. Perciò io direi, ringraziamo l'avvocato, e vogliamo ricordare anche il numero di telefono? Certo che sì, 0523 315960, ripeto 0523 315960. Grazie avvocato per la sua partecipazione. Avremmo continuato questa chiacchierata a lungo, ma il tempo, come si usa dire, è tiranno, e conosciamo bene la loquacità e l'oratoria dei nostri avvocati. Grazie veramente, grazie della sua partecipazione, e magari avremo la possibilità di ritrovare l'avvocato prossimamente. Grazie anche a voi, e sicuramente ci sarà nuove occasioni per un confronto. E ringrazio chi ha, appunto, certo, ringraziamo Garda, ringraziamo Garda Servizi che ci ha dato questa opportunità, gli ascoltatori della trasmissione. Grazie a lei avvocato. Tutti.